Potete trovare una posizione in cui vi sentite a vostro agio. Prima di prepararvi a entrare in trance, con il corpo che si sente comodo e in posizione confortevole. E potete tenere le mani separate in modo che non incrociate il destro e il sinistro. E potete chiedervi da quale narice state inspirando di più, la destra o la sinistra. E forse non siete consapevoli che quando è inspirate dalla narice destra è prevalentemente attivo l'emisfero sinistro, mentre quando inspirate dalla narice sinistra prevalentemente attivo l'emisfero destro. E potete diventare curiosi di scoprire la differenza. Che fa essere nell'emisfero sinistro o nell'emisfero destro? Come cambia la prospettiva del mondo. E mentre siete seduti e avvertite il vostro respiro e il contatto dei piedi sulla terra, potete portare attenzione ai rumori di questo ambiente. Piccoli rumori come questo, al suono della mia voce, ad altri suoni di sottofondo. E mentre ascoltate ciò che ascoltate, potete diventare consapevoli delle immagini che scorrono nello schermo della vostra mente. Sono immagini chiare e dettagliate, riconoscibili, proprio così. O sono immagini confuse, cangianti, sono immagini colorate. Mentre vedete ciò che vedete, com'è il contatto della vostra mano destra? Qual è la precisa superficie di contatto? In che posizione è il vostro pollice destro? E come avvertite il passaggio dell'aria nel naso? E mentre sentite tutto questo, quali suoni state ascoltando? Suoni più vicini o più lontani? Definiti? Riconoscibili o no? Mentre ascoltate ciò che ascoltate, quali immagini vi state facendo? che tipo di immagini, che tipo di colori o forme. E mentre vedete ciò che vedete, le vostre spalle si stanno rilassando. Il vostro respiro comincia a rallentare e che suoni adesso. State ascoltando. Quali suoni con precisione sono udibili adesso? E la mano sinistra si sta facendo più leggera o si sta facendo più pesante? Mentre ascoltate questi suoni, quali immagini, magari di un ricordo molto piacevole, un ricordo che significa molte cose per voi. Un'immagine importante, che quando la rievocate sentite una particolare sensazione. Una parte specifica del corpo oppure diffusa. E questa sensazione, forse non ne siete consapevoli, collega quel ricordo a molte altre memorie, come il filo che tiene insieme le perle di una collana fino ad arrivare alla prima perla, quella più antica, da dove è iniziato quel flusso particolare di esperienze. Che costituiscono la base di importanti apprendimenti. E potete essere consapevoli, oppure no. E non ha alcuna importanza che siate consapevoli. Ciò che è importante è che la vostra mente profonda ricorda esattamente ogni cosa. E forse, prima o poi, potete prendere la decisione, sì, proprio così, con questo tocco, di affidarvi davvero alla saggezza della mente profonda, della grande mente che abita dentro di voi e dentro la quale voi abitate. Ed è piacevole sentire di far parte di qualcosa di molto più grande, connessi con tutto ciò che c'è, connessi al proprio interno, ginocchio sinistro, con l'anca sinistra, con la caviglia sinistra, ginocchio destro, con l'anca destra, la caviglia destra, ma anche la caviglia è collegata ad un sottile filo di consapevolezza, la caviglia sinistra al polso sinistro. E forse potete guardare quel filo di consapevolezza dentro di voi, e mentre guardate, osservate ciò che vedete e ascoltate la vibrazione particolare di quel filo. Forse potete prendere una grande decisione, che è quella di continuare ad esplorare, diventare davvero curiosi dei poteri, delle possibilità che conferisce la pratica dell'ipnosi, che non appartiene a nessuno, è qualcosa che è di tutti, come l'acqua, l'aria, le stelle nel cielo, come un tramonto d'inverno o un'alba nella prima primavera, come le foglie dell'autunno quando cambiano colore, come il profumo della terra dopo che ha piovuto. Sono di tutti, di nessuno, siete collegati senza saperlo a tutto ciò che c'è, e l'ipnosi è una pratica meravigliosa per scoprire questa connessione. Adesso io conterò da 1 a 6, prendendovi tutto il tempo per completare la vostra elaborazione interna in modo sano, in modi più utili per i vostri particolari bisogni. Quando avrò finito di contare, voi tornerete qua, in questo tempo, in questo spazio, riaprendo gli occhi. 1 2 3 4 completando gli assestamenti necessari all'atterraggio. 5 e 6. Buon atterraggio. Molto bene così.